Siamo riusciti a collegarci con la Palestina. Ciao. Ciao, ciao a tutti e a tutti, sì, in diretta dal terzo giorno di carovana. E oggi 14 maggio, la giornata è molto calda, è iniziata questa mattina con un incontro con i pescatori di Gaza, i fisherman che ci hanno accolto stamattina proprio sulla spiaggia e ci hanno raccontato insomma, le difficoltà e la tenacia allo stesso tempo con la quale tutti i giorni insomma, cercano di portare avanti il proprio lavoro e nonostante i divieti insomma, che Israele continua a porre. E l'interposizione proprio fisica, insomma, che le navi militari israeliane fanno rispetto alle barche che cercano insomma, di andare a pescare sulla costa di Gaza. Ovviamente insomma, sono degli incontri ogni giorno che in un certo senso ci lasciano senza parole e ci raccontano delle realtà insomma, che noi forse potevamo immaginare, ma insomma, nel momento in cui uno arriva qua. Si rende conto della difficoltà proprio pratica e quotidiana, insomma, nella sopravvivenza che questa popolazione deve continuare a portare avanti. L'incontro subito dopo, insomma, la carovana si è spostata verso l'ospedale. Questa mattina siamo stati accolti nell'ospedale principale di Gaza, dove anche là insomma, ci hanno tenuto a raccontare le difficoltà di continuare a lavorare in una situazione in cui l'elettricità e l'acqua vengono sottratte quotidianamente in questo territorio e con una parentesi abbastanza lunga su quali sono state le difficoltà rispetto all'operazione di piombo fuso che si è verificata in questa striscia insomma, nel 2009 e che ha visto insomma, con la quale ci hanno raccontato appunto la difficoltà che loro hanno provato in quelle giornate. Insomma, basti raccontarvi insomma, che ci hanno detto che dopo 5 minuti che l'esercito israeliano era entrato all'interno della striscia di Gaza, già 200 vittime, 200 persone erano entrate all'interno dell'ospedale richiedendo assistenza e cura medica. Dopo quell'incontro insomma, siamo andati invece a vedere il campo profughi di Jabalia, abbiamo appena concluso una partita di calcetto che incredibilmente siamo riusciti a pareggiare a differenza insomma, delle altre carovane che degli degli anni anni passati. precedenti. Esattamente. E insomma anche qui è un momento molto toccante, insomma, la partecipazione dei ragazzi che stanno all'interno del campo profughi è sempre estremamente coinvolgente. Ci hanno offerto il pranzo e ovviamente l'ingresso di una carovana di 80 persone all'interno di una striscia di terra in cui praticamente è impossibile appunto avvicinarsi ci ha restituito il desiderio da parte di tantissime associazioni in realtà di incontrarci, quindi le giornate sono molto intense e la possibilità anche di soffermarci a lungo negli incontri è effettivamente molto limitata, quindi adesso già ci troviamo di nuovo all'ospedale di Alauda e a breve insomma inizieremo un incontro anche con tutti i medici che in questo momento si stanno aspettando qua fuori. Allora, diciamo che Questa voi più o meno siate lì, insomma, questa anche. Vai, vai. di vale. No, niente, volevo chiedervi comunque se, ricordando insomma, che questa notte è comunque l'anniversario dell'uccisione di Vittorio Arrigoni, immagino che anche nella striscia di Gaza, questa notte o domani mattina, voi farete qualcosa proprio in suo ricordo. Sì, esattamente. Beh, come magari vi avranno già raccontato, insomma, qua ogni incontro è preceduto dalla voglia da parte dei compagni e delle compagne palestinesi di ricordare Vittorio e di esprimere le loro condiglianze rispetto a quello che è accaduto e la loro vicinanza, insomma, al convoglio che ovviamente appunto ha le caratteristiche o cerca di riprendere, insomma, quelle caratteristiche della lotta che portava avanti Vittorio in questi territori. Nel pomeriggio avremo un incontro con tutte quelle realtà giovanili che in questi giorni abbiamo incontrato e che quotidianamente stanno vivendo con noi questa carovana, si può dire, perché ogni spostamento dai pullman agli incontri alla notte quando andiamo a dormire è fatto costantemente con loro. E quindi in un certo senso con loro cercheremo di immaginarci sia un momento di ricordo per Vittorio che verosimilmente faremo domattina presto, un incontro che è stato in un certo senso esteso anche appunto ai pescatori che abbiamo incontrato questa mattina, perché insomma una delle attività che appunto faceva Vittorio era quella del monitoraggio e dell'interposizione a sostegno appunto dei pescatori. Questa mattina ci hanno fatto anche vedere Oliva, la barca appunto che è stata varata qualche giorno dopo l'uccisione di Vittorio, e quindi appunto domani mattina dovremmo fare un momento di ricordo al porto. E l'incontro insomma con questi ragazzi preparerà anche la giornata di domani, che appunto l'anniversario della Nakba, e che nonostante i nostri pochi mezzi di informazione qua nella striscia, insomma, quello che ci stanno raccontando e che stiamo vivendo sono giornate in cui appunto questa data cresce sempre di più. Ieri ci raccontavano di 3 milioni di persone al Cairo, quindi l'attesa per domani è molto forte, la stiamo vivendo con estrema intensità, appunto insieme a tutte quelle compagne e quei compagni che domani, ovviamente essendo abitanti di questa terra, vivranno in maniera ancora maggiore. Perfetto, noi allora ti salutiamo e ci...